Thank you. Buonasera. Good evening. This is Municipale Balcanica. We come from that little, little town in the south of Italy. We are about to give you everything we learned about our roots and about all the melodies that came from the Mediterranean Sea. The klezmer tradition, Kolomeika. grazie. The most famous tune of the world. Mazel Tov, Ava Nagila. Thank you. Grazie. Next song is quite weird to sing. It's in Italian. It's Orso Ballerino, the Dancing Bear. It's a song against the exploitation of animals in circuses. Orso Ballerino. Squallide passioni con risposte. Sono pur sempre un orso, lo vedete. Ed è semplice la mia filosofia. Sentirvi padroni di ogni creatura è la vostra malattia. Con la terra che scotta siete voi lo spettacolo meschino. In me che sono vivo e torturato, voi vedete solo un orso ballerino. Di paese in paese, stessa gabbia, stesso padrone. Tra tanta gente nessuno ha pietà di un fenomeno da baraccone. Sad. This is God is Gypsy. Thank you. So you can dance, I see. But can you sing with Municipale Balcanica? Yeah! Are you ready for rock and roll? Yeah! Now, this is a folk band, okay? For the confused ones. Please sing with us the song we learned. It's Alle Brüder, Tutti Fratelli. We all are brothers. It sounds like this. Un mio sogno è Alle Brüder. Oi, oi, Alle Brüder. Sing with us. Oi, oi, Alle Brüder. Un mio sogno è Alle Brüder. Oi, oi, Alle Brüder. Rise up your glasses. We feel at home here, okay. So. Tarantella, no. Alle Brüder! Oh, fate voi da cui amare, voi da cui amare, ma va bene che ave, ma fino a che ave, voi da cui amare, voi da cui amare, ma va bene che ave, ave, ave, ma bene che ave, ave, ave, ma bene che ave, ave, ave. Next song, unfortunately, comes from France. It's Rigaudon, an ancient French dance. We'll be right back. Grazie. So next song is FOWA. It stands for grazie, thank you. FOWA includes all the sounds and the noises of Municipale Balcanica. Oh, Grazie, grazie. So hug your neighbor. Let's love each other. All you sinners, okay. Pinuccio is our last song. Thank you. tenor sax Raffaele Piccolomini. Luigi Scaramella. Bass Giorgio Rutigliano. Chitarra Raffaele Tedeschi, grazie. Sax Armando Giusti. The Unstoppable Michele De Lucia, clarinet. Our president, our leader, our Mahatma Gandhi, Nico Marziale. A smo še za tri. Prosim, bend še tri. En, dva, tri. Še tri. En, dva, tri. Še tri. En, dva, tri. Še tri. You've been too gentle to us. We're proud, but now we're about to feel like Backstreet Boys, okay? No, thank you. Thank you. This song comes from our homeland. It's from Puglia. Kali Nipta. Thank you, grazie di cuore, grazie Ines, grazie Gaetano. We thank all the technicians that work with us. They've been so patient. Thank you. Grazie, grazie ancora di cuore. Spettacolo! questa disgrazia mia. Sono pur sempre rosso e questo spiega tentazione che ho spesso di sbranarmi. Le mani bianche, l'anima nera che tentate con la seta di coprirmi. Io catene e voi gioielli, dalla luce così triste. La vostra idea di felicità si ferma a squallide passioni con risposte. Sono un segno, se lo vedete, ed è semplice la mia filosofia. Sentirvi padroni di ogni creatura è la vostra malattia. Con la terra che scotta, siete voi lo spettacolo meschino.